Abbiamo qui con noi la voce del Muro del Canto, Daniele Coccia, ed è per noi un immenso piacere. Ciao Daniele, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti. Vi intervistiamo perché il 6 luglio vi aspettiamo live al Botanica Bologna e in occasione di quella data voi porterete live il vostro album maestrale, il quinto album in studio. Intanto, se ci vuoi un po' parlare dell'album e com'è stato questo anno di rodaggio. È stato buono, sarà buona anche l'estate, noi siamo contenti di come sta andando. L'estate invece si suona tantissimo e l'album sta andando bene. Ecco, diciamo, suoniamo tanto e siamo contenti. Rispetto al vostro scorso disco, L'amore mio non more, che vi avevo un po' consacrato come una delle band fondamentali del panorama indipendente della musica italiana, cos'è cambiato con Maestrale? È cambiato soprattutto che alla chitarra c'è Franco Pietropaoli, che ha sostituito Giancarlo Barbati. Come faceva Giancarlo, si è occupato della produzione del disco, quindi c'è stato sia un elemento nella scrittura dei brani nuovo, ma anche un elemento nella produzione dell'album intero. Poi è cambiato che, diciamo, che abbiamo sentito molto minacciato quello che è il nostro sogno, la musica, dalla pandemia, quindi è un disco urgente, diciamo, un disco che abbiamo fatto in campagna tutti insieme, volevamo fortemente farlo e fortemente ritornare sui palchi e stare comunque insieme. A proposito di questo, tu ci hai accennato che è un disco registrato in campagna. Ecco, abbiamo partorito all'inizio della pandemia stando divisi, poi appena si è potuto, stavamo all'aperto, abbiamo fatto quello che poi sta nel disco, però è stato bello perché, ecco, diciamo, ci ha molto influenzato proprio il fatto di scriverlo all'aperto, in campagna, poi col vento, con le nuvole, il sole, gli animali che giravano intorno a noi, galline, cani, gatti, quindi è stato molto diverso e questo ha influito anche sui testi, che parlano spesso della natura, del ritorno alla natura che forse avevamo dimenticato precedentemente. Mi hai proprio anticipato la prossima domanda, che era quella dell'album racconta il rapporto che si ha con la natura, con l'ambiente che ci circonda. È una necessità che è arrivata post-Covid, mi sembra questa. Diciamo che l'unica possibilità che c'era durante il Covid era quello di andarsi a fare magari qualche passeggiata, qualche scampagnata, qualche uscita in montagna, al mare, e quindi comunque siamo stati costretti a ritrovare quelle sensazioni che onestamente ci hanno sorpreso. Poi, ecco, forse, diciamo, è la linea conduttrice dell'album, ma l'album spesso utilizza la natura per parlare di altre cose. Cambiando un attimo argomento, voi nel 2015 avete fatto uscire un singolo meraviglioso che è Figli come noi, che parla degli abusi di potere delle forze dell'ordine. Mai come oggi questo singolo è attuale, guardando anche i fatti di cronaca delle ultime settimane, ma in realtà degli ultimi 20 anni, che costellano un po' i titoli dei giornali. Cos'è rimasto di quel singolo oggi per voi e anche per il pubblico che lo ascolta ai live? Guarda, è una canzone molto controversa, nel senso che onestamente avremmo voluto non scriverla, perché se non ci fossero stati fatti di quella natura non ci sarebbe stato bisogno di scriverla. Noi abbiamo realizzato anche un video, siamo stati a contatto con l'associazione ACAD contro gli abusi in divisa, abbiamo conosciuto molti delle famiglie delle vittime degli abusi e è stata comunque una cosa molto interessante, molto forte per noi. Spesso prima dei concerti era difficile sentire quelle storie e poi salire sul palco e fare il concerto, portare musica, allegria, però sentivamo che era una cosa che qualcuno doveva fare, non nel senso musicalmente era nato quel testo e noi l'abbiamo abbracciato. Quando la suoniamo dal vivo c'è una reazione molto forte, molto bella, poi è una canzone ritmata, molti si commuovono, è una cosa che succede spesso anche a noi, quindi siamo contenti di averla fatta. Non avremmo voluto scriverla, ma siamo contenti che esiste e che parla di questo argomento che purtroppo non è stato né debellato, e speriamo che queste cose accadano sempre di meno. Speriamo, anche se purtroppo le notizie che ci lascia la nostra politica sono sempre poco speranzose. Esatto. Sì. Ritornando un po' a temi un po' più allegri, noi siamo veramente contenti e vi aspettiamo di vedervi live al Botanica Bologna il 6 luglio, che è oltretutto ad ingresso gratuito. Ti ringraziamo per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie mille.